È mercoledì 28 settembre, uno sguardo ai titoli di apertura con il Sole 24 Ore. Volano le borse, bene l'asta bot, mentre Banca d'Italia, ultimo scontro, questo è il titolo del Corriere della Sera. Su questo tema si concentra anche la Stampa, braccio di ferro su Banca Italia. E poi l'inchiesta che coinvolge Berlusconi, che ora può finire dalla parte degli indagati dopo essere stato considerato vittima di una presunta estorsione. Per Repubblica, Berlusconi ordinava di mentire l'accusa del tribunale del riesame di Napoli. Il giornale, mollano i criminali e inseguono le ragazze, inchiesta su PM ossessionati da Berlusconi. Per il Fatto Quotidiano, bugiardo e depistatore. Questo è riferito a Berlusconi. Il Messaggero, i giudici, Berlusconi sapeva e il Secolo XIX sapeva che erano escort. Libero invece punta dal secondo giorno sulla inchiesta tra i suoi lettori sul nuovo centrodestra deve essere anticasta. Mentre per il Manifesto il titolo d'apertura ai minimi termini è la vicenda di 600 operai di Termini Imerese che arrivano a Roma per protestare contro la chiusura dello stabilimento ma trovano un governo che non li ascolta, lo stabilimento è quello della Fiat. Allora, voglio raccontarvi due o tre storie, se riesco, prima della pubblicità. La prima riguarda una persona che ha un cognome che certo tutti o molti di voi subito associano a una persona, Giuseppe Salvatore Riina, terzo genito di Totò Riina. Mio figlio via dalla Sicilia, uno lo voglio salvare. La vicenda è di Giuseppe Salvatore Riina che domenica uscirà dal carcere dopo aver scontato una condanna a 8 anni, 34 anni, figlio del capo dei capi, rimarrà al nord, andrà a vivere a Padova, vivrà e lavorerà per una Onlus. C'è già qualcuno, dice, una rivolta da parte di qualcuno a Padova, qui non lo vogliamo. La moglie di Totò Riina, Ninetta Bagarella, moglie, madre e sorella di boss mafiosi, come racconta Claudio Del Frate, dice almeno uno, Salvuccio, il terzo genito, lo voglio salvare, quindi chiedo ai giudici di farlo risiedere lontano dalla Sicilia, ora che ha scontato 8 anni e 10 mesi per associazione mafiosa. Alla sede della Onlus, dove lavorerà, dicono non vediamo perché non si possa dare una possibilità al reinserimento a un detenuto per il cognome che porta, ma sia chiaro, sarà sorvegliatissimo, se sgarra lo rimandiamo da dove è venuto. Insomma, la polemica, perché andrà in una Onlus, vuole stare al nord, a Padova, e qualcuno a Padova non lo vuole. Per esempio l'assessore regionale Maurizio Conte, leghista, dice a Padova non lo vogliamo. Il suo collega di partito, l'onorevole Massimo Bitonci, che è anche sindaco di Cittadella, annuncia un'interrogazione a Palazzo Madama per questa scelta. Voglio rimanere sul Corriere perché si segnala, come al solito si segnalano in queste interviste che suscitano in me una profonda rabbia, immagino anche molti ascoltatori, gli ex brigatisti che ogni tanto parlano. Questa volta è Valerio Morucci, colui che era al postino del sequestro Moro, l'uomo che partecipò alla strage di Via Fani, l'uomo che telefonò il 9 maggio 78 per spiegare al professor Tritto dove andare a cercare la Renault 4 col cadavere del presidente della Democrazia Cristiana. Ebbene, intervistato a Le Monde, l'intervista viene rilanciata dal Corriere da Stefano Montefiori, dice «Non ho rimorsi o rimpianti. Mi definisco oggi», sentite bene come si definisce, poi se lo capite mi scrivete una mail, «un democratico partecipativo fautore di un'autogestione locale». Ripeto, un democratico partecipativo fautore di una autogestione locale. Valerio Morucci, che poi sotto il titolo «Senza rimorsi», questo è l'articolo apparso su Le Monde, dice «eravamo in guerra contro lo Stato». All'epoca continuo a pensare che il sequestro Moro avesse un senso, resta un vero trauma rispetto a quello che è successo, ma all'epoca aveva un senso, l'Italia era in una situazione pre-rivoluzionaria, la lotta armata era una risposta strategica al potere della Democrazia Cristiana e dei fascisti, eravamo in guerra contro lo Stato. Oggi ha 62 anni, lavora a Roma come tecnico informatico per un'agenzia di viaggi. Valerio Morucci, intervistato da Le Monde. Un'altra storia che voglio raccontare, questa è una ricerca scientifica, passiamo a cose un po' più leggere. Controordine, i figli non sono uguali. Esiste il prediletto di mamma e papà. Cari genitori che avete più di un figlio, sappiate, mettetevi il cuore in pace e ammettetelo a voi stessi guardando nello specchio, guardandovi l'un l'altro, anche voi avete un figlio prediletto. Non è vero che volete bene in modo uguale, che non fate preferenze, che per voi i figli sono tutti uguali. Gli scienziati americani sfatano il mito della parità. Solitamente chi è il preferito? Il primo. Il primo dei due, mentre Peter Bescapè, che evidentemente io sono il quarto di quattro figli, però insomma, invece Peter Bescapè pare è il primo e quindi è contento. Solitamente è il primo. Questo dicono gli scienziati americani in un articolo che Angelo Acquaro da New York inizia così: avviso ai fratelli minori, non leggete questo articolo. Potrebbe confermare quello che avete sempre sospettato. Mamma e papà hanno sempre preferito vostro fratello maggiore. Avviso ai fratelli maggiori, non leggete questo articolo. Potrebbe svelarvi quello che non avete mai sospettato: mamma e papà hanno sempre preferito vostro fratello minore. Sta di fatto che, insomma, questa teoria è stata confermata, pare anche scientificamente, come interrogando, sentendo tantissimi genitori, e l'idea e la questione è questa: per il 70% dei papà, il 60% delle mamme dicono abbiamo una predilezione per uno dei due figli. Solitamente è il primo. Voglio chiudere prima della pubblicità, perché siccome avremo appunto Isabella Rauti, insomma la vicenda che coinvolge Rauti Minetti, un piccolo gossip, lo trovate su Chi, ma oggi Libero lo rilancia a pagina 8, riguarda Nicole Minetti che si è lanciata in danze prodigiose, perché insomma era il matrimonio di sua sorella Angelica. E il settimanale Chi è andato a zoomare con la foto sul polso di Nicole Minetti e ha scoperto che Nicole Minetti si è fatta un nuovo tatuaggio. Volete sapere questo tatuaggio? È una scritta. La scritta è in greco ed è codesta: Kyrie eleison, cioè Signore, pietà. Ci sentiamo tra qualche minuto. E allora, quando sono le 7:33 minuti, rientriamo in diretta nel racconto, nella lettura dei giornali che ripropongono, intanto tra i temi politici, è diventato anche un tema politico ovviamente di discussione, la questione del coinvolgimento del premier Silvio Berlusconi nella vicenda che non è più nella procura di Napoli, ma è stata trasferita, verrà trasferita forse alla procura di Bari. Anche qui c'è un intreccio tra procure per capire chi dovrà indagare, perché nella decisione del Tribunale del Riesame che ha liberato, ha rimesso in libertà Giampaolo Tarantini, Berlusconi viene definito come uno che sapeva che le donne procurate da Tarantini erano escort. Questo secondo i magistrati, tre donne, tra l'altro fa sottolineare e sottolinea il Corriere della Sera nella decisione dell'ordinanza del Tribunale del Riesame. Il premier sapeva delle escort, così titola pagina 8 il Corriere della Sera, e tra l'altro la competenza passa a Bari, e fa sapere il Corriere con Fulvio Buffi che, oltre a scrivere che la condotta posta in essere da Berlusconi appare perfettamente rispondente a quanto il codice penale prevede l'articolo 377 bis, il che comporta inevitabilmente l'iscrizione a Bari di Berlusconi nel registro degli indagati, il Riesame, sostenendo che il premier era a conoscenza dell'attività di escort delle ragazze che gli portava Tarantini, pone la procura pugliese di fronte alla possibilità di valutare un'eventuale indagine sul capo del governo, in questo caso per il reato di favoreggiamento di Tarantini, che a Bari è accusato di sfruttamento della prostituzione. Insomma, diciamo che l'inchiesta si annoda e le polemiche non mancano. Per Repubblica, a pagina 1, 2, 3, quelle buste di 10 foto con dentro 100.000 euro, con le nuove accuse dei giudici di Napoli. Attenzione, infatti c'è, secondo anche il giornale, una sorta di minaccia della procura di Napoli quando dicono torneremo. Berlusconi sapeva dell'escort, pagava Tarantini per non parlare. Ecco le nuove accuse dei giudici di Napoli. E tra l'altro nelle motivazioni del Riesame la Vitola è complice del premier. La Vitola che tra l'altro latitante a Panama, ma oggi è dato per collegato alle 21:10 ospite di La 7 alle domande di Enrico Mentana e altri giornalisti. Parlerò di tutto, promette. Chi lo sa, se stasera sulla 7 alle 21:10 vedremo Walter Lavitola in collegamento video da Panama. Quindi insomma latitante, però si sa abbastanza dov'è se si collega in video. Il giornale attacca molto duramente su questo tema. In prima pagina promette un'inchiesta sui PM ossessionati da Berlusconi, promette nel senso che è alla puntata 1 oggi. Mollano i criminali e inseguono le ragazze. La procura di Napoli indaga sul gossip. Intanto crescono furti e rapine. Oltre 100 clan ringraziano. La pone così il giornale. Mentre i PM spiano il gossip, la camorra fa soldi e uccide. Gianmarco Chiocci, inviata a Napoli, l'articolo a pagina 3, e effettivamente si conclude con uno continua, il che vuol dire che il giornale promette un'inchiesta su questo tema. Tra l'altro si ripartono, diciamo, anche i commenti, le posizioni favorevoli, sfavorevoli. Vi segnalo due editoriali oggi su questo tema. Il primo di Angelo Panebianco in prima pagina del Corriere della Sera dal titolo «Una questione sotto traccia». Scrive Panebianco: se Berlusconi, prendendo atto che il suo ciclo si è esaurito, che la sua posizione è ormai diventata insostenibile anche per l'immagine internazionale del paese, lasciasse la guida del governo, ma senza favorire ribaltoni, si aprirebbe una possibilità, si potrebbe ricominciare a discutere, non dico serenamente, ma almeno seriamente, del ruolo della magistratura in questo paese. Al momento, con Berlusconi premier, ciò non si può fare. Gli animi sono troppo incattiviti, le passioni troppo viscerali, le partigianerie troppo smaccate e cieche. Solo se Berlusconi lascia si potrà forse ricominciare a discutere del merito di cose come l'uso politico delle intercettazioni, la fine che hanno fatto, grazie al famoso circo mediatico giudiziario, la tutela della privacy, la presunzione di non colpevolezza, eccetera, eccetera. E poi Panebianco dice, dopo questo incipit, fa un excursus storico del rapporto sempre più avvelenito tra magistratura e politica in questo editoriale. Dicendo serve appunto fare una discussione sul ruolo della magistratura. Giuliano Ferrara invece è molto duro oggi in prima pagina sul Foglio. Il taglia e cuci dei PM, quando la giustizia è buffon, pagliaccesca, succedono cose strane, la giustizia spia sistematicamente Berlusconi. Altro che trappolone, è una spregiudicata caccia all'uomo fondata su generiche verosimiglianze, tutte dovute all'incresciosa, bastarda circostanza delle feste private a casa del Premier, che non sono un reato, ma trasformate in reato rendono possibile queste temerarie attenzioni dei PM combattenti contro chi governa il Paese. Insomma, cari ascoltatori, dopo 20 anni siamo ancora qui, a questo scontro magistratura politica. Tra l'altro c'è i giornali che sono scatenati ovviamente sulla scia, cercando di intercettare questa volta fisicamente Giampaolo Tarantini e sua moglie. Sul Corriere, per esempio, trovate un'illuminante foto della moglie Angela Devenuto, la moglie di Tarantini, che esce dal tabaccaio di fronte a casa. Poi girate pagina, pagina 10, troverete invece Tarantini che esce un fare un po' sospetto dal portone di casa alle 5, si guarda un po' intorno, come dire, c'è qualcuno, beh insomma lo aspettavano tutti con una serie di flash, ovviamente gente anche che gli fa la foto col telefonino, lo trovate sul Corriere a pagina 10, oh guarda c'è Giampaolo Tarantini, clic, fa la foto col telefonino, e poi la foto mentre degusta un cappuccio, o meglio un caffè, e poi la foto a Roma, dove alla fine fa un po' di slalom, depista, entra dal barbiere da una porta secondaria in via del Babuino, chiude il barbiere Vincenzo la Saracinesca, ma c'è questa foto imprescindibile di Giampaolo Tarantini che è seduto sulla sedia del barbiere che sta cominciando a tagliargli i capelli. Queste sono le prime giornate di Giampaolo Tarantini, che ovviamente non ha dichiarato nulla. La moglie dice: ma sì, siamo sereni. Questa è l'unica dichiarazione della moglie. Invece la reazione di Berlusconi è arrivata intervenendo telefonicamente a una manifestazione di Don Gelmini, dell'associazione di Don Gelmini, dicendo: Berlusconi, mi sabotano PM e stampa. Ce l'ha insomma con una sorta di congiura pare di capire, questa la reazione di Berlusconi. Berlusconi che ieri ha incontrato, e qua veniamo più alle cose strettamente politiche, Giulio Tremonti. Qualcuno l'aveva definito mezzogiorno di fuoco, il vertice tra Berlusconi e Tremonti, tregua obbligata, titola oggi a pagina 8 il Sole 24 Ore, verso due provvedimenti per la crescita, una sorta di tregua obbligata che tra l'altro Libero sintetizza così nell'articolo di Salvatore Dama a pagina 6. O si lavora assieme o crolla tutto, così avrebbe detto Berlusconi a Tremonti. Giulio, il momento è gravissimo, non possiamo litigare tra di noi. Qui, se non facciamo qualcosa, si va tutti a casa. Insomma, con questo tono anche della voce suadente, scrive Salvatore Dama, ha cercato e è riuscito insomma in qualche modo a riappacificare la situazione con Giulio Tremonti, questo almeno secondo i resoconti dei giornali, anche se sullo sfondo si intravede uno scontro, un nuovo scontro istituzionale nel senso di opinioni, tra Tremonti e Berlusconi, che ha per oggetto, per la verità non è uno scontro nuovo, Banca Italia. Questo è anche dà lo spunto per il titolo di apertura della Stampa, braccio di ferro su Banca Italia, ma anche per il Corriere, Banca d'Italia ultimo scontro, insomma ne parla anche il Sole 24 Ore a pagina 9, governo diviso, duello su Banca Italia, il tema è questo, Mario Draghi tra poco andrà alla BCE e dunque lascia la poltrona di Banca Italia, chi sarà il suo successore? Pare che ci siano due candidati, vale a dire il direttore del Tesoro Vittorio Grilli, che è considerato un tremontiano di ferro e che quindi non è ben voluto da Berlusconi, ma anche altri come il capo dello Stato Napolitano propenderebbero invece per Saccomanni, vale a dire il direttore generale già attuale di Banca Italia. E rimane, secondo Rossella Bocciarelli, il candidato in pole position, proprio Fabrizio Saccomanni, ma la determinazione a chiudere rapidamente la parte del governo, nonostante il fatto che la crisi imperversante sui mercati internazionali consiglierebbe una scelta tempestiva, non è ancora tale da consentire uno sblocco rapido della procedura. Dunque oggi, dice il Sole, il Consiglio Superiore di Banca Italia che si riunisce non prenderà in considerazione il parere sulla nomina del successore di Mario Draghi. D'altronde c'è tensione su questo. Per Libero sembra ormai il posto di governatore destinato a Fabrizio Saccomanni, appunto Napolitano, Berlusconi, anche Letta lo vorrebbero, mentre Grilli, che non sarebbe considerato appunto un troppo tremontiano, figura centrale nel sistema tremontiano, potrebbe allora andare all'antitrust, una delle autorità in scadenza nei prossimi mesi. Berlusconi poi ce l'ha appunto con una parte della stampa, con i PM, i sabotatori, diciamo, ce l'ha anche, questo lo scrivono sia Libero sia il Corriere della Sera, avrebbe messo nel mirino, insomma, in una dichiarazione, in una cena fatta con imprenditori un paio di giorni fa, il leader degli imprenditori italiani, vale a dire il presidente di Confindustria, Emma Marcegaglia, definita, così scrive Libero e anche il Corriere della Sera, un'ingrata. Che ingrata! Questa è la frase di Berlusconi, o l'aggettivo di Berlusconi riferito al leader degli industriali. Dal punto di vista politico è anche il giorno del voto, di questo ne parleremo alle 8.30 più compiutamente, per Saverio Romano, il ministro dell'agricoltura. C'è una mozione di sfiducia presentata ai suoi danni da Partito Democratico, Italia dei Valori, Futuro e Libertà. Oggi ci sarà il voto in Parlamento. Saverio Romano infatti è indagato dal 2003 dalla Procura di Palermo per concorso esterno in associazione mafiosa. Il GIP ha accolto la richiesta di archiviazione, ma in seguito la Procura ha riaperto l'indagine. Poi c'è stata la richiesta, insomma, dell'imputazione coatta di Romano e conseguentemente la Procura ha avanzato la richiesta di rinvio a giudizio. Ora, il ministro Romano non è imputato in questo momento, non è stato ancora rinviato a giudizio, ci sarà un giudice che si dovrà esprimere, ma è indagato ovviamente per questo reato che, a sentirlo, suona come un reato grave: concorso esterno in associazione mafiosa e corruzione. Oggi ci sarà il voto palese, ma insomma da questa notizia, e perché c'è qualcosa sui giornali di interessante, ripartiamo tra poco dopo le informazioni sul traffico. Allora, come detto, il voto oggi alla sfiducia, alla mozione di sfiducia presentata ai danni del ministro Saverio Romano. Il voto è palese, quindi non ci sarà scrutinio segreto, per cui allora la maggioranza ha detto voteremo compatti. In realtà, per esempio, il repubblicano Nucara, che sarà nostro ospite alle 8:30, ha annunciato voto, pur facendo parte della maggioranza, voto contro Romano e quindi voto sì alla mozione di sfiducia. Vedremo se sarà così. Pare che qualcuno, siccome il voto appunto è palese, quindi uno se vota contro i dettami della sua parte politica viene smascherato subito. Allora che cosa si fa in questi casi? Si bigia, come a scuola, non si va in Parlamento. Per cui grande attenzione anche alle assenze, ci sono dei deputati malati. Per esempio il Corriere fa sapere: si vota la sfiducia, spuntano i dissidenti tra la maggioranza, cioè Tremaglia e Franzoso che sono malati, c'è Alfonso Papa che è in carcere, dunque sono voti, diciamo, in meno. Ieri Giovanardi ha detto questo: credo sia stata un'imprudenza fare ministro l'amico Saverio Romano. Se non avesse accettato il ruolo, le accuse contro di lui sarebbero state archiviate. Poi ha fatto un po' retromarcia. C'è ovviamente anche molto da vedere cosa farà la Lega. La Lega che è accusata anche dalla sua base di dire: ma come? Insomma, salviamo in nome dei numeri, in nome della tenuta del governo, salviamo una persona che però è indagata per un reato che, insomma, a noi leghisti non piace proprio, no? È interessante oggi un'intervista a pagina 6 e 7 dell'Unità a Dario Fruscio. Dario Fruscio, per anni, 74 anni, per anni consulente economico di Umberto Bossi. Un paio di giorni fa ha parlato anche ai nostri microfoni in Radio 24, in un'intervista che poi è stata ripresa da tutti i giornali. E ora è stato, diciamo, mandato via, lui dice, dall'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, l'AGEA, presieduta da lui dal 2010, era stato nominato dal predecessore, il ministro Zaia della Lega, è stato, lui dice, cacciato dal ministro Romano. Perché è stato rimosso? E tra l'altro dice Fruscio in questa intervista: la Lega così arriverà al disastro, cioè sostenendo il ministro Romano. Perché è stato rimosso? Chiede Andrea Carugati per Unità su a Fruscio. C'è stato un interesse convergente da parte di Bossi e del ministro Romano da Palermo, dice così proprio, no? Il leader del mio partito voleva che io menassi il can per l'aia sulle multe per le quote latte, mentre io volevo che venissero pagate. Vorrei ricordare che la mancata riscossione delle multe rischia di esporre l'Italia a nuove e più pesanti sanzioni, senza contare il danno per l'erario. A giugno mancavano all'appello 1,6 miliardi di multe non riscosse. Se le multe non vengono pagate, rischiamo di essere multati nuovamente dall'Unione Europea. Beh, forse la Lega si aspettava che lei difendesse gli allevatori. Bossi mi conosce benissimo, sa come mi comporto quando siedo in un ente pubblico. E poi il commissariamento firmato dal ministro Romano, anche lui aveva i suoi interessi. Dopo l'arrivo del commissario sono stati rinnovati i consiglieri sindaci di due controllate di AGEA, AGE Controle, SIN SRL, la gran parte dei nominati è siciliana, proprio come Romano. Lo chiamerei spoil system, ma quello di solito si fa quando cambia il colore politico di un ministero. E poi dice Romano: non sono neanche riuscito a parlarci, mi ha detto il ministro, il suo segretario, il ministro non ha tempo. Insomma, Dario Fruscio accusa, attenzione perché la Lega, io rimango leghista, ma la Lega se va avanti così rischia il disastro, soprattutto sostenendo un voto come questo. Comunque vedremo, avremo anche ospite un onorevole leghista a parlare di questa vicenda del voto di Romano. Voglio andare sul Sole 24 Ore, dove vi voglio segnalare l'intervista oggi a Michael Olson, Chief Executive Officer, il capo numero uno dell'IKEA. IKEA è pronta a investire 1 miliardo di euro in Italia. Sapete che è una vicenda di cui ci siamo occupati in passato anche il Sole 24 Ore, proprio perché gli investimenti dell'IKEA spesso sono stati osteggiati, in due casi a Pisa e Torino, con dei modi di fare un po' tutti italiani, delle beghe tra enti che rischiavano di far saltare investimenti imponenti dell'IKEA. Oggi intervistato Michael Olson da Attilio Geroni dice: IKEA vuole investire di più in Italia, investiremo 1 miliardo, è assolutamente uno dei più importanti mercati a livello mondiale. Per quanto riguarda le vendite, al 4º posto, per gli acquisti addirittura al 3º dopo Cina e Polonia. L'Italia è il nostro 3º fornitore. E tra l'altro dice sulle vicende di Pisa e Torino, e quindi i 140 milioni di investimenti non sono proprio bloccati. Sappiamo essere pazienti. Su Pisa abbiamo trovato una soluzione alternativa grazie anche al presidente della regione Enrico Rossi. L'investimento si farà e siamo una svolta anche per Torino, dove la grande disponibilità del governatore del Piemonte Cota ci lascia ben sperare. Siamo ancora in trattativa, ma sono ottimista. Nel 2012 è prevista l'apertura di Pescara e in primavera avvieremo un altro progetto di investimento a Perugia. Dunque IKEA in questa intervista dice: siamo pronti a investire 1 miliardo di euro. Siamo in chiusura. Voglio segnalare che è stato, visto che ne avevamo parlato nei giorni scorsi, fermato l'aggressore, quello che per un sorpasso, a suo modo di dire azzardato, ha usato il crick in testa contro 2 automobilisti a Milano. È stato fermato, si era tagliato i baffi, si era fatto rifare la carta d'identità in comune subito il giorno dopo l'aggressione. È stata trovata sangue nell'auto, a 55 anni, è un ex agente di commercio residente in provincia di Novara, con precedenti di polizia ma di piccolo conto, vale a dire una denuncia per possesso di banconote false 10 anni fa e resistenza al pubblico ufficiale. L'indagine tra l'altro ha portato alla luce il fatto che stava per forse fuggire all'estero, nel senso che la moglie già era andata. Comunque è stato preso. E infine, in India questa vicenda, l'India mette un tetto a chi manda troppi sms. È un paese dove tutti hanno un'utenza telefonica, anche i poverissimi. Il secolo XIX, pagina 9, sarà vietato inviare più di 100 messaggi al giorno. Non se ne può più, ci sono le telepromozioni, sempre attaccate al telefonino in India, così pare. E dunque, il governo parla di misura anti-spam, c'è anche la paura del terrorismo, in ogni caso più di 100 sms al giorno non li puoi inviare, se no paghi le multe. E che dire, insomma, concludo. Il calcio lo sapete, 2 vittorie in Champions League. Ha vinto l'Inter, complimenti a Mosca. Ha vinto il Napoli, complimenti in casa col Villarreal. Ma le partite vere sono stasera di Champions League. E noi ci fermiamo per il giornale radio.